I heard it on the airwaves. one else around. Ooh, I got a ship inside, don't wanna see a ghost. It's the slide that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Ooh, ooh, ooh, ooh. Life, oh life, oh life, oh life. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. feel real with the fever on the dance floor. The flame. Who can dig the way that I flex on a track? I'm causing rampage. Ricky Rick on point with the knock I stop for my lift. That be rolling the mad joints. So put your hands in the air. Cause there's a party over here. So grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it. So let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco. I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it. So I can turn the party out. Till tomorrow afternoon. Cause when I grips my stills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the fever, fever, fever? Lost in your eyes. eso. Y todo el año, la FM. Clásicos. Siempre. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era. El mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad los aíslan de tu mundo. Yo comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Y en mi corazón esa imaginación es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. El mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. your body, girl, you better do that conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself with any numbers. Feel the rhythm of the music getting stronger. No, your body, girl, you better do that conga. Shake that body. People, don't you? play for them, this bass is strong. Getting to the high stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove it. Come on and move this. Shake that body for people. Don't you know? Don't you know it's about time? Can you hear the jam is pumping while you taste a piece of mine? Many different flavors and the spice is strong. Getting to the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. Don't think me, I'm coming. of their positions. Words that scream for your submission. No one's jamming their transmission. Riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia. Rischiamo di fare una figuraccia, sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischio e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata re, serenata re. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Serenata re, serenata re. Yeah. affacciati alla finestra, amore mio. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Lo sguardo in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio, yeah. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi sogni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono io. Y todo el año, la FM. Clásicos siempre. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God, jump out that sofa, let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, face out, losing all control. Ch-ch-ch-ch. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. Cause I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel. Tonight's the night. Hey! Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like, oh my God. Like, oh my God. Jump out that sofa.